Buonasera, buonasera, buonasera o buon pomeriggio, fate voi un pochettino. Allora, benvenuti a tutti a quelli che dicevo, benvenuti a tutti a quella che è la quarta puntata di Music Vox Populi, che vedrà come ospiti la mia band. Sì, perché non sono riuscito a trovare altre band, quindi vedrà come ospite la mia band gli ADD, oppure gli ADD, oppure gli Addaveru Daveru, oppure gli ancora da definire, e tutti i vari nomi che ci hanno appioppato per questo acronimo che sta solamente ad ADD, la classica malattia. Allora, bando alle ciance, andiamo con il primo pezzo che appunto presenterà gli ADD. E subito dopo gli ADD ci sarà un ospite, appunto, che arriva proprio dalla band, quello che un pochettino ha iniziato tutto quanto. Quindi ci sentiamo fra poco. Il momento va il primo pezzo. Serve tanto coraggio e paura non ne ho, senza cuore né cervello, cantando pagherò, perché io il mio nome ricordati e giandù, ricordati e giandù, ricordati e giandù. Serve tanto coraggio e paura non ne ho, senza cuore né cervello, cantando vagherò, perché io il mio nome ricordati e giandù, ricordati e giandù, ricordati e giandù. E allora, bimbi, Bimbi, vediamo se risponde, vediamo se risponde. Oe, ci sei? Eccolo Sì, pronto. qua, Pronto. calabrese più che Buonasera. mai. Buonasera, sei pronto? Ciao, beh, sozzi, da ovviamente. quanto tempo che non ci sentiamo? Beh, da un bel po', da un bel po'. Come va, come va? Ah, ma tutto a posto. Tu come stai, Johnny? Tutto bene, Meno se non male, per il meno fatto che qui male. mi conoscono più come Jovo che come Johnny, quindi grandissimi passi in avanti. Sì, JP. JP, il vecchio buonamato JP. Allora, Esatto, esatto. dato che Dica. probabilmente qualcuno ci starà sentendo e magari qualcuno si Ok. starà chiedendo anche chi cacchio è questo, per non dire chi cazzo è Ok, questo, anche se l'ho quindi appena mi detto, presento. presentati. Allora, buonasera, sono Stefano Quattrose, sono il chitarrista degli ADD, vecchia chitarra del gruppo catanzarese. E niente questo. Che ansia. No, non fare il modesto, dai, lo sappiamo tutti che sei anche il No, membro fondatore della band. ma cioè, diciamo, i fondatori in realtà eravamo due, io e l'altro chitarrista Pasquale, che poi ha lasciato la band in seguito. Però diciamo, no, dai, non. Buh, Esatto, coniglio Pasquale, buh. Boo, che se n'è No, no. andato, ci Vabbè, ha dai, mollato. aveva i suoi buoni motivi, dai, si può dire. Esatto, sì, ha avuto le sue buone ragioni, insomma, però vabbè. Quindi, Diciamo, quindi i fondatori siamo in due. Poi vabbè, c'è anche Silvestro, che è il bassista, insomma, siamo un po' tutti alla fine. Tu sei l'ultimo che è arrivato, mi dispiace dirlo. no, ma Tu sei arrivato. perché il meglio arriva sempre alla fine, no? Quindi si può Esatto, è vero, è vero, è vero. dire. No. Questo è anche vero, è vero. Allora, a Tu sei parte. stata la nostra ciliegina sulla torta. Sì, dai. A parte questo, a parte la mia modestia, perché alla fine è abbastanza riconosciuto in tutto il mondo ormai. Allora, quindi abbiamo detto che comunque la band è iniziata con 5 membri, si può dire, giusto? No, allora in realtà la formazione era io, chitarra ritmica, Pasquale, chitarra solista, Silvestro, basso voce e il buon Teuzzo alla batteria. Anzi, in realtà all'inizio c'era pure uno che suonava le tastiere, uno che si chiamava Andrea, però è stato buh. Mister I Andrea due Lupia, che abili. salutiamo perché poi è diventato anche un mio amico tramite Ah, Silvestro del Bavaria. ok, sì. Sì. Ah sì, vabbè, ovviamente. Vabbè, ma lui ha fatto 2 o 3 volte le prove, poi insomma se n'è andato. Sai com'era figa l'idea della tastiera, però non lo Sì, so. era figa, però Si vede che non è alla andata fine c'era all'epoca. Silvestro. No, no, no, non è andato in porto, però alla fine c'era Silvestro che era anche un buon pianista, cioè è un buon pianista, quindi Se alla serviva, alla fine fin dei conti abbiamo. faceva tutto lui, si può dire, dai. Esatto, alla fine sì, diciamo c'era Silvestro che faceva anche da tastiera. Allora, guarda, Diciamo così. bando alle giance, o meglio, ma tanto giance alla fin dei conti non sono perché comunque si è descritta, diciamo, l'inizio della band. Sì. Però c'è da dire una cosa, Teuzzo oggi non c'è. Sono molto Ah, sì. addolorato perché ha preferito festeggiare San Valentino. Va, mi sembra anche giusto, insomma, voglio Maledetto, maledetto, da dire. quando ha conosciuto la figa quello là ormai se Esatto, n'è insomma, andato. ormai se n'è andato di testa, ormai, vabbè, Non è più il siamo nostro contenti per Teuzzo. lui. Non è, sì, molto contenti, ma non è più il nostro Teuzzo docile che No, no. tutti conoscevamo. Vabbè, quindi comunque tutto questo per dire alla fine dei conti che la puntata sarà a metà fra te e l'altro ospite della serata, che appunto sarà Silvestro. Ah, il buon Sì, perché Silvestro. ha voglia, non si può fare altrimenti, poi comunque mi scoccia fare monologhi miei e poi soprattutto non, alla fin dei conti sì, sono un membro degli ADD, ma alla fin dei conti quelli che hanno scritto la storia e quelli che erano all'inizio eravate voi, quindi io più che mettere la voce, fra virgolette voce, poi soprattutto alle nostre canzoni, non, di altro non posso aggiungere nient'altro, perché alla fin dei conti quelli che hanno seriamente costruito la storia degli ADD siete voi. Quindi mi è Sì, sembrato vabbè, ma giusto. insomma, l'abbiamo fatta insieme la storia alla Sì, fine, vuol poi dire. grandissima storia soprattutto, dai. Cioè, Beh, sì. vai a Catanzaro e dici ADD, ti rispondono, e chi cazzo sono? Vabbè, No, vabbè, guarda, oddio, con Rompetto Guardo scherzate. le Cosce abbiamo avuto una certa notorietà, Oh, secondo me. Madonna, Madonna, Madonna che. Allora, tu l'hai nominato, quindi adesso sono cazzi tuoi, lo sai? Lo sai che Sì, adesso lo so. sono cazzi tuoi perché adesso l'hai nominato, no? Tecnicamente Sì, lo c'era so. una cosa da far passare, ma adesso facciamo sentire la nostra ingenuità di bambini con un pezzo bellissimo. Allora, esatto, sì, direi che anche diciamo... sentila che bella, sentila, senti. Vai. La senti? Sì, guardo sì, le cosce alla ragazza tua. La lasciamo un pochettino di sottofondo. Così nel frattempo continuiamo a chiacchierare. Così poi seguiamo. Seguiamo la scaletta per la fin dei conti. Chi cazzo vabbè vuoi? Scaletta poi tutto inventato ovviamente. Vabbè. Però. Sì, sì. Allora, il primo pezzo degli ADD. Cosa? Il primo pezzo degli ADD, qual è? Allora, il primo pezzo degli ADD è Specchio, che abbiamo composto quando ancora c'era Silvestro alla voce, c'era Pasquale, quindi è stato proprio il primissimo pezzo in assoluto, che poi è stato riarrangiato successivamente quando sei entrato tu nel gruppo, perché gli hai aggiunto la parte rappata che secondo me ci sta da Dio un po' bene. Secondo me è veramente, quella parte là mi piace veramente troppo. Sì, in effetti mi ricordo che in svariati concerti c'era il buon Sozizio che quando arrivava il turno di questa canzone molto tranquillamente mi si avvicinava alla spalla e mi faceva: oh, ricordati la parte rappata, porco sì, Dio, sì, ricordati perché, la parte rappata. Esatto, perché volevo ricordarti perché era la parte più figa del pezzo, quindi cioè, se ti dimenticavi quella mi prendeva male per tutto il pezzo, quindi io per sicurezza te lo ricordavo. Sì, ma perché poi alla fine dei conti fai bene, dato che noi siamo malati di ADD, come tutti pensano, quindi abbastanza propensi a dimenticare cose e a farne altre. Per questo. Per questo, chi cazzo vuoi? Eccolo qua, Sozizio. Aspetta che rifacciamo sentire un secondo Sozizio sul finale. Sozizio sul finale, che è stato qualcosa. Sentilo qua, sentilo qua. Chi cazzo vuoi? Questo qua è Sozizio, eh. Addetti ai lavori è Sozizio. Chi cazzo vuoi? Perché era l'unico fidanzato all'epoca, se non erro. Sì, mi sa quindi, sì, quindi poi, dato che la canzone parlava di un tizio che guardava le cosce ad un'altra ragazza che era fidanzata con un altro tizio, esatto, lui era l'unico ovviamente che poteva dire chi cazzo vuoi, alla fine dei conti. Va bene, allora, hai parlato di Specchio, hai parlato della parte rappata, mi sembra giusto farla sentire, onestamente. Bello. Quindi vabbè, molto... no, a questo punto fai sentire tutto Specchio, ok? Insomma, è sì, sì, no, adesso la faccio, quello ti stavo dicendo, adesso facciamo sentire Specchio, noi okay andiamo giù nel baratro e nel frattempo Specchio. Guardo intorno e cerco il mio posto in questo mondo. Cerco un altro, Sofia Morale, nella mia logica normale. Non male, basta non esagerare, anche se a volte vorrei scomparire. Poi mi guardo allo specchio che mi dice: e dove c'è un nemico sei tu? Mi guardo allo specchio e rido, uscito con la noia questo brivido. Lo specchio mi risponde con sincerità: il tuo peggior nemico sei tu. Giorno, mi guardo intorno e cerco il mio posto in questo mondo. Cerco una filosofia morale nella mia logica normale. Non male, basta non esagerare, anche se a volte vorrei scomparire. Poi mi guardo allo specchio che mi dice: il tuo peggior nemico sei tu. Mi guardo allo specchio e rido, uscito con la noia questo brivido. Lo specchio mi risponde con sincerità: il tuo peggior nemico sei tu. Il tuo peggior nemico sei tu. Quasi quasi ci butto dentro e giù. Questo flow è per te ragazzo che ti guardi allo specchio e pensi che sei pazzo. Con i tuoi capelli strani, con i tuoi vestiti anormali, che non capiscono questi marrani, no, che non capiscono questi marrani. Sono sei vero amico, ricordati che quel ragazzo non sei te. È il mondo che ti vuole emarginare, ma tu per favore lasciami stare. Mi guardo allo specchio e rido, uscito con la noia questo brivido. Lo specchio mi nasconde con sincerità nemico sei tu. Sozi, chi è il tuo peggior nemico? Sono io. Grandissimo, grandissimo pezzo partorito da quella mente perversa di Silvestro Perri, che avremo più tardi salutiamo. Che salutiamo e che avremo più tardi poi soprattutto. Allora, si stava parlando prima, sotto mentite spoglie, quando nessuno ci sentiva, si stava parlando del fatto che comunque questa canzone racchiude sia i miei gusti personali in toto, perché appunto unisce sia il rap che il rock che tutte le altre cose, e sia anche i tuoi, perché alla fin dei conti viaggiamo più o meno sulla stessa ideologia di È vero, sì, musica. alla fine io e te eravamo quelli con i gusti un po' più simili, alla fine nel gruppo avevamo tutti i gusti un po' diversi, e te eravamo quelli che, insomma, eravamo più o meno sulla stessa cresta d'onda rispetto ai gusti musicali, alla fine eravamo lì vicino. Quindi, specie proprio figa, perché poi, cioè, col fatto che era stata la prima canzone, noi eravamo tutti nel periodo hardcore, quindi tipo metalcore, cose così, tipo gruppi tipo Avenged Sevenfold, quindi cioè, si sente proprio l'influenza di questi Ha gruppi, voglia, specchio. ha voglia. Poi E anche sei per questo arrivato molti ci hanno tu, gli detto hai che messo faceva da schifo. parte. E Cosa? per questo molti ci hanno detto che faceva schifo come canzone, perché appunto Sì, perché c'erano molti l'influenza sì, metalcore. odiano questo genere, quindi sì, no, che cagata di cantare. Invece, poi è arrivato lui, insomma, gli ha messo pure la parte rappata, perché Johnny ha comunque qualche influenza un po' rap metal, alla Limp Bizkit, io gliel'ho sempre detto. Come mi hai Quindi. sempre detto, che se mi metto un cappello sembra assomiglia al cantante, pare Esatto, preciso. identico. Quindi insomma, poi con l'aggiunta anche del pezzo rappato che gli ha messo Johnny, cioè per me specie è diventata proprio il top del top come canzone. Quindi, sì, è quella a cui sono più affezionato, anche perché è stata la prima alla fine, quindi Sì, non ma solo la più. inevitabilmente, perché anche per quanto mi riguarda, soprattutto. La sento figlia mia questa canzone, come altre canzoni che abbiamo fatto insieme, però questa qua me la sento proprio. È vero, No, sì. sento tutti gli ADD, sento le tue chitarre distorte, il testo di Silvestro, il mio rap, la batteria di Teo che pesta come un dannato e manco più di tanto, a dire la verità, però comunque si sente, il basso di Silvestro che sembra il solito basso chitarra a 7-8 corde che spacca tutto quanto come al solito. Sì, E niente, esatto, è ci siamo tutti, in proprio questa racchiuso. canzone ci siamo Esatto, seriamente tutti. siamo tutti. Sì, esatto. Anche Sì, se, perché è anche, una canzone che sì, vai, fondamentalmente finisci. andrebbe fatta a due chitarre, quindi capito, c'è anche la presenza di Pasquale in quella canzone, Sì, capito? sì, Perché poi sì, tutti i sì. pezzi nuovi erano arrangiati a una chitarra, mentre Specchio era arrangiato a due, quindi si sente anche che c'è Pasquale là dentro, Sì, quindi appunto, ci proprio sono secondo tutti, me. ci sono seriamente tutti gli Esatto, ADD che sono sì, ci passati. siamo tutti, sì. Quelli Esatto, che sono stati un pochettino in proprio. pianta stabile ci sono stati tutti. Poi comunque Esatto. prendi l'esempio di Andrea o comunque gli altri cantanti che avevate provato all'epoca, per dire, questi qua ovviamente non ci sono, ma per ovvie ragioni. Però tutti gli ADD, mi è caduto il mouse, questo è stato il rumore, tutti gli ADD insomma si sono sentiti in questo pezzo, si può dire. È vero, sì, esatto. Tutti gli ADD La comunque penso. poi si sentono anche in un altro pezzo, che però penso che terremo per ultimo, e poi ne parleremo con Silvestro di questo. Tu sicuramente lo conosci molto bene, dato che sto parlando di DNA, che poi è un altro acronimo Sì. c'è un'altra bella canzone anche quella, Sì, che vi diciamo di rimanere all'ascolto, perché poi la sentite, quindi è figa come canzone, magari vi potrebbe piacere. Del resto, quello che mi premeva più che altro è un tuo ricordo sugli ADD, la cosa che ti è rimasta più impressa. beh, sicuramente quella sera che abbiamo fatto il pene sulla fronte e ci abbiamo visto gli occhi baci, cioè, secondo me quella sera veramente c'eravamo io e Silvestro buttati sul letto con le lacrime, io avevo un mal di pancia, tanto che stavo ridendo. Poi avevamo anche suonato, quindi c'era proprio tutto, cioè, after concerto più il cazzeggio a casa di Silvestro lì, cioè, secondo me quello è uno dei momenti più belli E io, che che abbiamo io in tutto fatto. questo dormivo come un dannato. Esatto, tu dormivi come un sasso e noi che ti torturavamo col pennarello lì. E per quale No, è motivo stata dormivo con veramente una. un sasso? Vediamo se ti ricordi. Per Cosa? quale motivo dormivo Ah, con sì, un è sasso? perché ovviamente la sera prima avevi fatto festa e ti eri messo giustamente a dormire sull'ulivo vicino a casa mia. Cose da Non persone potrò mai normali, voglio dire, dimenticare la tutti faccia di tuo dormono. padre, ti giuro, mai. La Me faccia di tuo padre che l'immagino. mi apre alle 5 e mezza del mattino, forse anche alle 6. Qualcosa di allucinante. E tu che Sì, cazzo ci ora fai, ca? esatto. Oddio, pure un'altra cosa che ricordo veramente, sai, che ogni volta ne parliamo pure con mia mamma e con mio padre, ci pisciamo dalle risate, quando ti sei chiuso le mani. Ecco, immaginavo. Quando ti sei chiuso le mani, veramente. Madonna mia. Stavamo andando a Potenza a suonare, ti sei chiuso le mani nello sportello, Johnny, veramente lì siamo. E poi lì c'eravamo proprio tutti, perché tu eri pure sveglio, quindi non è che dormivi. Sì, sì, sì, ma poi... Eravamo tutti, poi c'erano pure i genitori di Teo, insomma, lì era una bella macchinata ed eravamo fermi a Sala Consilina perché mi ero fermato, esatto, ad andare a salutare i miei zii, insomma. La cosa bella è stata, io di quel momento là ricordo la cosa più bella, che è stata la mia tranquillità nel dire: tuo padre capo, mi avete chiuso le mani nella portiera, sì, gentilmente se ne aprite. Esatto, è mio padre che non ti credeva, stessi scherzando, era ancora meglio. Sì, che perché poi quando mi ha aperto la portiera, ovviamente io ho iniziato a bestemmiare come un cane malato. Sì, sì, esatto. I genitori di Matteo che ti vedevano dalla macchina non capivano nulla. Non sapevano cosa fosse successo, pensavano tu stessi provando un trucco di magia per il concerto. Quindi questo è ancora meglio. Madonna, no, ok, esatto. Forse quello lo metto al primo posto, quando ti sei chiuso le mani. Sì, perché poi è stata seriamente una cosa bellissima. Cioè, sì, anche perché penso tutte cose naturali. Molte cose sì, naturali sì, che sì. Non te le aspetti, poi ti capitano e ti fai le meglio risate. Esatto, sì, alla fine. Sì, sono state tutte le cose più genuine che ci hanno fatto morire dalle risate. Che poi anche forse per questo qualcuno ci ha sentito, ci sente, perché appunto noi diamo genuinità. Esatto, sì, non siamo come altri gruppi, non faccio nomi. Heartbeat, cazzo, gli Heartbeat! Esatto. Un saluto a Pablo Caroleo. Se proprio lì li vogliono vedere, ma ormai più alla tecnica, ai video e alle pelle. Sì, noi eravamo molto più sul cazzeggio, sul far bordello, sul tentare di fare musica buona, anche se comunque molte volte non ci riusciva. E appunto per questo ma mi ricordo. Ma alla fine, eravamo bene, sì. Eravamo noi, capito? Avevamo sì. Stile, molto cazzone, molto ignorante, però alla fine era l'imbiscato style. L'imbiscato, esatto. Style, vorrei... imbiscato style, imbiscato, imbiscato, aspetta che devo fare la traduzione. Imbiscato in calabrese significa immischiato, che sarebbe come se fosse un alternative rock per la nostra mente, insomma. Sì, esatto. Però era molto più imbischiato perché appunto c'erano tracce di rap, tracce di qualsiasi cosa che fosse musica, insomma. Esatto, proprio tanti generi uniti così in una canzone che tu l'ascoltavi e dicevi: ma che cazzo? Stanno facendo? Ma che è sta cosa? Sì. Comunque, esatto. Io non perché la facevamo, ma io mi ci divertivo tantissimo. Ed era stupendo sentirci, soprattutto. Io quando mi capita qua con il telefonino di mettere la musica, no? Ogni tanto mi capitano dei pezzi nostri. Qua in Pullman a Firenze, praticamente, che mi è successo? Metto un pezzo nostro, inizio a canticchiare, vedo che una ragazza. Mi tocca la spalla e mi fa: scusa, ma che cosa stai cantando? Mi faccio io un pezzo mio di una band che avevo a Catanzaro. No, sembra figo, mi fai sentire qualcosa? Sì, gli ho fatto sentire qualcosa. Adesso questa qua probabilmente sarà in Cambogia a pettinare i canguri, ma per dire. Però comunque dà qualcosa, insomma. Cioè ti viene, ti interessa anche relativamente. Sì, ma perché alla fine eravamo molto particolari con il gruppo, cioè quando ascolto i nostri pezzi dico: però cazzo, eravamo veramente particolari. Alla fine non eravamo molto tecnici, forse il più tecnico era Silvestro, cioè perché ma per ovvie ragioni poi musica, capito, anche te, cioè pure te, Roberto, sì sì, anche capito, te eravamo molto genuini perché noi due eravamo gli autodidatti, cioè comunque poi alla fine dei conti si divideva perfettamente fra autodidatta, la nostra band, appunto i tecnici, tra virgolette. Sì, sì, esatto, sì. Perché eravamo due autodidatti e te, poi c'erano Teo e Silvestro che invece comunque studiano, avevano studiato musica, quindi eravamo abbastanza equilibrati come esatto. Gruppo. Esatto. Sì, sì, sì. Allora, un altro pezzo, soci. Un altro pezzo, un così altro poi pezzo. Andiamo a chiamare quel grandissimo amicone nostro che è Silvestro Perri. Va bene, salutamelo tanto. Allora, un altro pezzo, ovviamente, direi uno degli ultimi che abbiamo inciso, che non mi viene il titolo, bello, ce l'ho sulla punta della lingua. Fighissimo! Proprio come voi, proprio come Azzo. Voi. Va bene, allora poi rientriamo, spieghiamo anche la canzone, perché il testo questa volta l'ho scritto io, sì, si noterà, poi comunque... facciamo un pochettino di, come vi posso dire, un pochettino di parole su questo singolo che è nell'ultimo nostro album che si chiama Bombe Postume, Postume. che poi ci racconterà Silvestro perché, quindi non ci bruciamo la domanda, insomma. E Ok, quindi sì, noi infatti, andiamo questa con, cosa. proprio come voi. La metto? Siamo sicuri? Va bene, Eh vai, vabbè, la vai. metto. Allora, proprio come voi. In ospedale, proprio come voi. Sono stato a un funerale, proprio come voi. Mi hanno messo un pannolino, proprio come voi. E ho dato un calcio a un pallone, proprio come voi. Solo che ora io sono qua giù per sfogarmi qualche ora. E quindi io ora sto sentendo te, che spari cazzata di perdizione e parli di persone che hanno sempre lo stesso nome, mentre da me sono le 4 di mattina e ancora sto scrivendo, prendo delle rime e me le faccio e poi me le leggo, tutto è nato da una tua canzone. Ho smesso di sentirla e mi è presa l'ispirazione. Avevo composto la cosa prima e adesso non mi ricordo come cazzo va. Il testo solo minchia va, va, va. Mamma, mamma. Sono stato innamorato proprio come voi, sono stato incazzato, proprio come voi, sono stato preso in giro, proprio come voi, e ho fatto un errore molto grave, proprio come voi, solo che ora io sono qua su per sfogarmi qualche ora, mentre tu ora stai sentendomi, che sparo una cazzata di perdizione e parlo di persone che ancora non hanno un nome. Sono le 4 di mattina e ancora sto scrivendo, prendo delle rime e me le bacio e poi me le vengo, tutto è nato dalla tua canzone. Ho smesso di sentirla e mi è presa l'ispirazione. Avevo composto una cosa prima e adesso non mi ricordo come cazzo va. Il testo solo mi scappa, mamma, mamma, mamma. Oh sì, te le vuoi fare quattro risate? Sì, dimmi. Allora, mo ti spiego che cosa ho combinato. Io Sentiamo. avevo due proprio come voi. Una era del master, Cioè, lo vedi che poi abbiamo avuto tipo che l'avevamo rimandato indietro una. Ecco, ho messo quella che avevamo rimandato indietro. Tant'è che la chitarra non si sentiva. O meglio, si sente, però si sente un pochettino più bassa la parte finale, insomma. Mannaggia la dai, miseria, sì. guarda. Vabbè, Il capita, dai. bello. Sì, Problemi capita. tecnici. Sì, piccoli problemi tecnici. Il classico bello della diretta, che poi tanto bello non è, però comunque sti gran cazzi. Va bene, abbiamo sentito proprio come voi. Tuo parere personale. Su questa canzone. A voglia. Allora, diciamo, fra le ultime, forse è quella che mi piace di più. Non so perché, forse perché c'è la parte pulita, un po' arpeggiata, poi passa la distorsione incazzata. Comunque, non so, fra gli ultimi pezzi che abbiamo inciso è quello che, a cui tengo di più. Non so dire perché, in realtà, è quello che mi ha colpito di più fra tutti quelli che abbiamo fatto. È forse quello in cui si può sentire molto di più comunque la differenza tra i primi, che eravamo molto più incazzati, e questo che alla fine è un pezzo abbastanza dolce, quindi si vede anche come siamo maturati in 2 anni comunque, sia a livello artistico che proprio come persone, quindi forse anche per questo, perché messo a paragone con i primi pezzi è proprio una differenza di totale livello tra i primi e quello, quindi Vabbè, non so mi perché. sembra abbastanza ovvio il discorso dell'essere cambiati, soprattutto nel mio caso comunque, perché io mi sono unito con gli ADD nel 2013, mi pare, giusto? Sì, Ecco, mi pare di sì. nel 2013 per me è stato un anno proprio che come ben sappiamo né della band, ma come anche sanno molti amici miei, il 2013 è stato un bell'anno abbastanza turbolento nel mio caso, perché appunto con la scomparsa di mia mamma poi c'è stato il discorso che da che ero totalmente incazzato poi sono diventato più docile, più calmo, più tranquillo, Sì, insomma. sì, sì, sì. È Quindi anche nella musica ovviamente si sente tutto questo. È vero, sì. inevitabile, è puramente inevitabile, tant'è che appunto nel testo che io con cioè, che Silvestro consideravo una preghiera all'epoca, se ti ricordi. Sì, Ma è questa vero, qua è era una una preghiera! È preghiera, una sì. preghiera, cazzo! Era preghiera, sì, è vero, mi Ecco, ricordo. Silvestro la considerava una preghiera, ma alla fin dei conti, questa qua, per come ce l'avevo in testa io, era una fottutissima critica alle canzoni moderne. Tipo, la band tipo che avevo in mente, vi raccontavo all'epoca che erano i Modà, insomma, no? Quindi, sempre le Sì, solite canzoni sì. d'amore, sempre le solite puttanate. E È vero. lì io ho pensato, aspetta, ci siamo anche noi. E essendoci anche noi, ho detto, vabbè, possiamo dare anche noi una nostra sfumatura. E ho partorito appunto questo testo che alla fin dei conti è abbastanza esplicito. Tutto Sì. questo comunque era rivolto, giusto per completezza di informazione, io lo rivolgevo a mia mamma, quindi come se fosse seriamente una lettera per lei, o una canzone per lei in questo caso, però comunque tutto questo testo era dedicato principalmente a lei, o meglio, era Sì, come se vabbè, ma glielo si raccontasse vede a lei. pure comunque nel testo, cioè c'è la parte proprio in cui dici mamma, quindi Sì, più o appunto, è meno molto cioè, si esplicito, capiva, sì. cioè, sì, c'è poco da aggiungere effettivamente. Va bene, sozi. Vero, vero. Va bene, allora me Allora, io vado ti chiedo se un'altra sono cosa, libero. io ti chiedo un'altra cosa, Ok, così poi ti lascio libero alla tua desiree, a tutti i tuoi cazzi che devi fare e roba varia. vai. Va bene. Io ti chiedo un'altra cosa, io ti chiedo di Dica. dire Wombat Wombat Wombat. Wombat e soprattutto di dirmi un altro pezzo, Un così altro poi, pezzo? sì, Beh. un altro pezzo che non ti Allora, aspettavi come ok. domanda, quindi ti ho spiazzato. Abbastanza, però Quindi adesso ce l'ho. un altro pezzo. È un pezzo che ci hanno sempre criticato. Non so perché, però è sempre quello che è. Io ho Anche in già live capito. ce lo criticavano spesso Ho ed è già prima di capito. cambiare. Eccolo Ed è qua. prima di cambiare, che è un altro pezzo che è stato il secondo prima di cambiare, infatti è ancora molto hardcore, è un altro pezzo che ci criticavano assai, quindi fanculo, adesso glielo mettiamo al titolo che ci Sì, criticavano, perché forse. poi completiamo l'informazione, poi ce lo criticavano perché appunto la voce è sempre un pochettino campata all'aria, tant'è che Esatto. c'era la tua sorellina, se così possiamo Sì, definirla, le che diceva, sorelline, ma insomma, 28 vabbè, sì, è anni. per questo, dicevo se così si può definirla, diceva, non mi potrò mai scordare una frase che mi ha detto lei, ma mi ha fatto, ma tu come cacchio fai a cantare questa canzone? Perché c'è praticamente una parte in cui tu praticamente È ti devi vero. appendere a una nota che non esiste. Dove vai? Sì, è esatto, che è quella del ritornello alla fine, Sì, quella quando fa prima di cambiare, che uno là sì, veramente si la... deve però mettere. la Però. cazzo di carica che metteva sta canzone quando si iniziava Esatto, con questa ma il canzone qua. live poi era veramente. da poco. Cioè, quante volte rischiavo di sbattere la testa contro la tua paletta? Quante volte ho rischiato? Madonna mia, sì, perché poi eravamo là tutti fomentati sul palco quando facevamo questa canzone. Il pubblico ancora più fomentato sotto. Vaffanculo, ma spacchiamo tutto, ma spacchiamo tutto. Esatto. E niente, soci. Vabbè, dai. È stato un piacerissimo. Allora, buon proseguimento. Tanti saluti alla, a Desiree. Un bacione proprio. Anche tanti saluti a tua mamma e tuo papà, perché come sai ormai sono abbastanza importanti anche per me, quindi sei come un salutare. Figlio per noi, sei stato come un figlio pure tu per loro. Diciamolo, è così. Abbiamo portato pure a Roma. Oh madonna. Vabbè, questa storia qua non la raccontiamo perché è poco inerente con gli ADD anche se comunque, quindi vabbè, prima di cambiare, ladies and gentlemen, questo è stato Sozizzo. Un saluto a Sozizzo. Buonasera a tutti. Un baciozzo. Ciao Sozzi, è stato un piacere. Ciao, prima Johnny, di cambiare, ciao. Prima di cambiare. Addio, mon ami. Ciao, Johnny. Ciao, Johnny. Ciao. Cambiare. Toc toc. Napoli, toc, rispondi? Toc. Ci sei? Napoli? Houston, rispondo forte e positivo. Eccolo qui il nostro Silvio Nazionale. Buonasera, salve Silvio. Tutti. Buonasera a tutti. Allora, non so se l'hai sentita, ma l'ultima canzone che è stata passata era Prima di cambiare, che conclude, che si conclude anzi con il tuo assolo finale. Guarda, Prima di cambiare, prima di tutto è un furto, perché me l'ha rubata suo Sizzo perché la volevo scegliere io e l'ha scelto e quindi già che ci sono volevo allungarmi, appoggiarmi su questa canzone per raccontarti a te, a tutti quelli che ci ascoltano, un piccolo aneddoto sulla canzone, se ci stai. Questa puntata è fatta per questo. Benissimo. È stata creata per questo, Houston. Dobbiamo raccontare allora, tutti i cazzi nostri. Perfetto, cazzi nostri in modalità on. All right. Prima cosa da sapere, forse tu questa non la sai, perché tu non eri ancora negli ADD quando questo succedeva. Probabilmente. Quando abbiamo composto questa canzone, ero ancora io il cantante del gruppo. Penso un po' che disgrazie. Oddio. E quindi avevo fatto io il testo e la cantavo anche io. Era un periodo in cui eravamo insieme da poco noi ADD e io prendevo per il culo da morire su Tizzo per due motivi, per due motivi principali. Vai, spara. Perché è mezzo coreano, lui fa mamma è coreana, salutiamo Kim, un bacione a Kim. Ciao Kim! E quindi lui c'ha gli occhietti a mandorla e alto e male, è proprio coreano questo ragazzo. Quindi Madonna mia. Lo prendevo per il culo per quello e perché suo padre è un commissario. Oh, il commissario Condoleo. A me interessava parecchio il commissario perché lui faceva il commissario non di polizia, commissariava tipo commissario nei comuni, quelle cose là, no? Quelle cose abbastanza ad alto tasso rischioso, insomma. Esatto. E commissionava il mio comune, Casabona, il posto dove sono nato e dove ho vissuto quasi tutta la mia vita. Quindi io arrivo a Catanzaro, che non era la mia città, mi unisco a questo gruppo e il mio chitarrista è figlio del commissario del mio paese. È una cosa che mi faceva un sacco ridere. Trigger! Esatto, e quindi quando cantavamo la canzone sul palco, quando ancora cantavo io, durante il ritornello, tra un prima di cambiare e l'altro, urlavo «E il padre di Stefano è un commissario!» Era una cosa eccezionale. Madonna, le risate. Questa come la ricordo pure io, perché poi quando insomma mi sono joinato anche io in questa band, c'è sempre stato sto piccolo particolare, a parte al Rock in Catanzaro. Là mi pare che non c'è stato il discorso che tu hai fatto. Padre di Stefano è un commissario. Mi pare che non l'hai detto all'epoca. No, là non è successo, ma è successo tante altre volte. Sai come funziona sempre il principio del bello della diretta. Là può succedere una cosa come un'altra. Sì, sì, ha voglia, ha voglia. Allora. E comunque il bello della diretta, dobbiamo dirlo per tutti, sei tu. Eccolo. Eccolo, perché io ti volevo aprire non con Toc Toc Napoli rispondi, ma con 1, 2, 3, go! Fuck this shit! Quella sarebbe stata una bella cosa, una delle prime cazzate che hai fatto quando eravamo insieme e alle quali ci hai abituato. Prima canzone, dai. Prima canzone della... perché vi raccontiamo. A Catanzaro esisteva un posto che si chiamava Caffè delle Belle Arti. Mi confermi, Silvio? Caffè delle Arti. Delle Arti, sì. Ecco, non delle belle, perché tanto bello non erano. Erano molto brutte. Esatto. E praticamente allora, primo live degli ADD in cui c'ero io a cantare, a parte il fatto che sono esplose le corde del basso, io ancora non mi capacito di quella storia. Sì, sono riuscito a rompere una corda del basso, non so come si faccia, ma è successo. Vabbè, storia anche quella. Praticamente vedete me che ero un ragazzino di 17 anni più o meno, si può dire. E allora tutto bello galvanizzato dal primo live, dalla prima canzone che iniziava fortissimo. Sbaglio l'attacco, gli faccio 1, 2, 3, go! Poi dopo vedo che non partono e gli faccio fuck this shit. E poi partono a fare... parte il nostro caro compagno, secondo me non c'è più con noi. Il nostro... Pasquale. Coniglio Pasquale. Con questo Coniglio Pasquale. E niente, poi comunque partiva Coniglio Pasquale e poi è partita la canzone, però c'è stato quel periodo là, quel periodo è stato abbastanza divertente e brutto nello stesso momento. Sì, è stato un periodo bello comunque perché ci siamo ritrovati con la nuova formazione. Un sacco di incertezza, ma alla fine, sai com'è, non ci si prende molto sul serio e si va sul palco, è andato tutto molto bene. Sì. Allora, Con Sozizio abbiamo parlato dell'inizio della band, ossia appunto con l'innesto, con l'arrivo tuo, con l'arrivo di Matteo, col fatto che insomma vi siete fondati insieme, sempre al Caffè delle Arti, sempre a Catanzaro. Però io volevo sapere la tua parte personale, perché appunto Sozizio ci ha detto la sua, adesso manca la tua. Quindi dalle origini e dalle fondazioni fino agli ultimi periodi? Si può dire di sì. Facciamo questa ricerca storica sugli ADD, allora facciamo qualche precisazione. Noi sì, ci siamo messi insieme in quel periodo, ci siamo messi che io cantavo e suonavo il basso, anche se il basso non era il mio strumento. E infatti voi, tra le tante cazzate che avete detto prima quando parlavate con Sozizio, avete detto che eravate gli unici autodidatti, ma no, perché anch'io ero autodidatta al basso. Cazzo, è vero, al basso sì, c'è ragione, perché tu eri... Cioè avevi studiato musica per la chitarra, ma non per il basso. Nemmeno. No, per il pianoforte del tutto, ecco, sì, appunto. Ecco, c'avevo un minimo dubbio. Pianista di formazione, ma sia la chitarra che il basso li ho dovuti imparare. Adesso ti spiego anche come. E perché poi soprattutto? Esatto, perché il mio primissimo gruppo sono stati gli Error 404. Oh mio Dio. E gli Error 404 eravamo tra non gli altri, dire più quel nome perché mi si blocca il computer, già lo sto sentendo. Noi eravamo in quel gruppo, io e il Giardino di Armida, che non era ancora con questo nome, lo sarebbe stato. Okay. Quindi capisci, siamo tutti collegati, infatti io sono un grande amico del Giardino di Armida, ho fatto il liceo con lui, quindi lui lo conosce meglio di me. E sono anche, non dico amico, ma conosco anche Ansani Sanò, con cui hai parlato poco tempo fa. Sì. Ho conosciuto anche loro. Ma Giuseppe o loro. Alessandro più che altro? Entrambi, perché li ho conosciuti quando curavano le musiche di uno spettacolo teatrale in cui recitavo, e li ho conosciuti così. Ah, figata. Hanno molto talento. Ah, voglio, esatto. Sono molto ma molto bravi. Un saluto e un abbraccio agli Anzani Sanò. Ciao belli. Allora, comunque dicevamo? Dicevamo quindi che anch'io ero autodidatta col basso, perché quando mi hanno reclutato negli Error 404, io volevo fare il tastierista, perché ho sempre studiato piano per tutta la vita. Solo che non era richiesto un tastierista, mi hanno detto, se vuoi, poi cerchiamo un bassista. Se conosci un bassista, diglielo, ma non cerchiamo tastieristi. Perché non è che mi hanno chiamato, l'ho fondato io. Solo che la tastiera non la voleva nessuno. E allora, a un certo punto, non potendo fare il tastierista, suonando quattro note di chitarra, ma veramente quattro note, a malapena facevo gli accordi, ho detto, va bene, faccio io il bassista. Vai! Infatti, il primo live l'abbiamo suonato, io non avevo un basso perché non ero un bassista, con il basso prestatomi dal fratellino piccolo di Sozizio, che era un basso per bambini. Oddio, non la so mai questa storia. Ho suonato con un basso che era lungo tipo 70 centimetri, niente di più, era minuscolo, ma suonava. Ma che sì, che poi proporzionato su te praticamente, cioè, madonna mia. Sì, devono sapere gli ascoltatori a casa che non mi conoscono, che io sono rinomato per essere abbastanza grosso. Sono un membro della società imponente. Sì, si può dire poi anche che eri un pilone di una squadra di rugby, mi pare, giusto? Sì, sono stato per un anno pilone del clan Catanzaro Rugby. Ecco, quindi immaginate quanto è grosso sto Silvestro. Il mio bodyguard personale quando si andava a suonare con gli ADD. Yeah! Va bene, quindi con gli ADD stavamo dicendo. Sì, con gli ADD quindi sono stato costretto a fare il basso con gli Error 404, e quando Stefano mi ha contattato per formare gli ADD, mi ha detto che a noi serviva un bassista, non un tastierista. E a quel punto ho detto io, pazienza, suoniamo il basso anche qui in questo gruppo ennesimo. Ho suonato il basso e suonandolo per anni con voi ho davvero imparato a suonarlo. Infatti ora credo di essere un bassista mediocre, discreto. Sì, assolutamente. Ma all'inizio era veramente qualcosa di obbrobrioso, perché non era il mio strumento. Vabbè, ma all'inizio tutti quanti facevamo un pochettino cagare. Stefano in primis, certo. Io in secundis. L'unico che si salvava era Teo. Sì, Teo era quello che era tecnicamente messo meglio. Voi prima avete citato me, ma Teo era quello che tecnicamente messo meglio. Sì, lo ringraziamo per tutto. Ah, voglia, sì. Perché Teo, seriamente, il membro che non si sente, ma è quello che alla fine dei conti è più influente su tutto quanto, insomma. Perché si può dire che tu facevi più che altro l'immaginazione della canzone, ma se non gliela passavi a te non si faceva nulla, si può dire. Infatti, ma poi mi dispiace tanto per il pubblico che non sia possibile parlare anche con lui, perché te è un personaggio, cioè, avrebbero apprezzato sicuramente. Sì, ha voglia, però ormai, come dicevo a sto tizio, l'abbiamo perso. Ma l'abbiamo perso. L'abbiamo perso, Teo, ormai sì. Quando si va a conoscere la figa si perde tutto. A proposito di figa, a Oddio, proposito di figa, oddio, che vuoi? quando parlavate di guardo le cosce alla ragazza tua, C'eri anche tu fidanzato, mi pare, all'epoca. Ecco. esatto, avete detto che solo Stefano era fidanzato, ma anche io ero sfortunatamente fidanzato, quindi gli unici che la figa non la conoscevano eravate tu e Teo. E in effetti ci scialavamo bordello a cantare quella canzone perché non ci sentivamo toccati. E ora la situazione si è ribaltata perché Teo non ha potuto parlare il giorno di San Valentino, appunto perché è entrata la figa in azione sulla sua vita. Io sono qui con te, io sono qui con te perché non vedo figa da una vita, mentre loro erano fidanzato. High Yeah! five, man. High five. High five! Allora, guarda, Buono... facciamo una cosa. Dimmi. Facciamo una cosa. Mandiamo un pezzo. Poi Vai. continuiamo con quattro chiacchiere. Perché tecnicamente sto andando quasi lungo, si può dire. Perché tecnicamente la trasmissione è iniziata qualche minuto dopo. Però si può dire Ok. che fino alle 6:15 si potrebbe fare qualcosa, insomma. Detto ciò, che canzone vuoi, Best Man? Allora, non metti tu, ma io scelgo Yes. una delle canzoni che più mi è piaciuta fare, che forse andrebbe registrata di nuovo meglio, ma è comunque una bella canzone. Una canzone di cui io ho scritto la chitarra e in cui Ok. Tu canti da solo, è una canzone acustica, tu sai di cosa sto parlando. Oddio. Sì, è proprio quella. Sì. Fuori di me. Eccola qua. Vai. Allora ci va. Ci va, ci va, ci va, ci va. Fuori di me, ADD. Soffiava diverso, davvero credo che sia tutto fuori di me. Ricordo un giorno in cui il vento soffiava diverso, davvero credo che sia tutto fuori di me. Soffiava diverso davvero credo che sia tutto fuori di me. Ricordo un giorno in cui il vento soffiava, diverso davvero credo che sia tutto fuori di me. Che sia tutto fuori di me, che sia tutto fuori di me, che sia tutto fuori di me, che sia tutto fuori di me. Fuori di me. Fuori di noi, tutto fuori di noi. Uè, Cine! Eccomi! Eccolo ci qua. Sono! Tutto, tutto quanto, abbiamo buttato tutto quanto fuori. Gas compresi. Beh. Ovviamente. Guarda, io la prima volta che ho cantato questa canzone, ho subito pensato, lui sicuro si sta rivolgendo ai gay. Adesso ci facciamo una compagnia di fans completamente tutti gay e andiamo a sfondare su quella scena lì. Andiamo a combattere contro Lady Gaga. Guarda, è una cosa del tutto errata, perché non mi è mai pensato di fare questa cosa sui gay. Lo so, però era una cosa che inizialmente, la prima volta che ho letto il testo, ho detto minchia, sta parlando di gay. Invece no. Invece no. Non mi ricordo nemmeno di cosa stavo parlando, e neanche di niente in particolare, perché alla fine dei conti diciamo che era un testo molto generale, poteva rivolgersi a qualsiasi cosa ed era un po' da interpretare. Sì, sì, ma come tutte le canzoni d'altra parte in questo fottutissimo mondo. Yeah. Allora, stavamo parlando, anche per te è arrivato il momento degli aneddoti. Allora, io inizierei dalla prima volta che mi hai visto. Ok, la prima volta che ti ho visto era la prima volta in cui non cantavo negli ADD, perché tu mi hai rimpiazzato come cantante. E quindi mi sei stato immediatamente molto, molto, molto, molto antipatico, perché il cantante ero sempre stato io e tu devi stare al tuo posto. Chi ti credi di essere? Il cantante degli ADD, piacere. Infatti, è stata una cosa brutta all'inizio e non mi piaceva nemmeno come cantavi, quindi proprio antipatia a prima vista. Il primo voto del gruppo è stato il mio, quello negativo, solo che poi gli altri hanno tutti dato un voto positivo e sei entrato. Me ne sono pentito più avanti, ti dirò. Ringraziando il cielo, poi ti devo dire la verità. No, ma poi qua si deve ringraziare soprattutto una persona, non smetterò mai di ringraziarla. Lo stavamo nominando prima in quella band là che non rischio un'altra volta di nominare, onde evitare che mi si rompa il computer. Insomma, il giardino di Armida. Perché io il là mitico. Mi ricordo che lui mi disse, almeno quantomeno, che c'è stato il periodo in cui tu appunto non mi potevi vedere, e invece c'era il giardino che ti faceva: ma guarda che questo qua è figo, secondo me ci sta. Eh sì, è stata un'opera di convincimento generale, un sacco di gente che mi diceva: guarda che bravo, guarda che canta bene. Io: no, non è vero, è una merda. Solo che poi alla fine, sai com'è, per convincermi non ci vogliono le persone, devo vedere quei fatti, e quei fatti ti sei fatto vedere. Ogni tanto qualcosa di buono riesco a farla, si può dire. Si può dire. Allora, invece un altro aneddoto, quello che probabilmente stavi dicendo prima che ti interrompessi. Oh, grazie. Un altro aneddoto, diciamo, lo voglio dire da parte, cioè, nei confronti del commissario. Oddio, ce l'hai morte questo commissario. Il commissario, ricordiamo, il padre di Stefano, che, come hai detto tu, per lui e per Kim sei come un figlio, ma vorrei ricordare che anch'io lo sono, perché ogni volta che capitavo a casa di Stefano, andavo da lui per pranzo e il commissario cucina in una maniera divina. Mi hanno nutrito come dei genitori. Sì, perché poi alla fine dei conti la cosa bella era questa, che appunto era una mini famiglia votata praticamente su tre famiglie, perché la mia si può dire che non c'era, ma comunque era una mini grande famiglia, si può dire, perché poi alla fine dei conti diciamolo che io sono anche mezzo cugino di Mastro Teo, quindi ancora più legato a famiglia, si può dire, cugini di grado, vabbè, di quale, però comunque sempre un ceppo familiare, più o meno c'è sempre stato. E appunto la cosa bella è stata questa. Sì, anche i tuoi genitori, come si sono sempre comportati con tutta la band. Un piccolo comparto famiglia che si andava avanti. Guarda, sì, è stata una cosa molto bella, perché non era un gruppo come gli altri, gli ADD. Era un gruppo che non era legato da rapporti professionali, ma eravamo veramente una grande famiglia. Noi ci conoscevamo tra famiglie, andavamo ai concerti tutti insieme. Se ti ricordi la prima volta che siamo andati a Potenza a suonare, siamo andati con mio padre che ci si è fatto una scarrozzata in macchina, la seconda volta con il commissario. Quindi, insomma, c'è sempre stato Io me lo questo. ricordo quando siamo andati con tuo padre, che quel grandissimo personaggio di tuo padre, mentre eravamo sulla statale 106, tira una frenata mentre stavo dormendo. Eh sì, ma con una frenata intenzionale, Eh perché sì, lo so. mio padre è come me, prende per il culo un pochino tutti. E come io prendevo per il culo Stefano preferenzialmente, tu eri il suo soggetto di presa per il culo, Ah, voglia. principale. Ma quando veniva a mangiare a casa tua? Ma guarda, sembra tanto questo qua, sembra tanto quell'altro, ma non ci assomiglia a quell'altro ancora. Mi posso Sì, vedere lui in ti tutte queste guarda, scene. mio padre ti guarda, trova le somiglianze. Quando eravamo in macchina quella volta, eravamo tutti svegli tranne te che già dormivi, eravamo partiti da 3 km praticamente, tu già dormivi. Allora lui fa, ragazzi, ma sta dormendo Giovanni? E noi, sì, si sta dormendo. Ok, guardate adesso. E tira una frenata spettacolare sulla 106. Tu sei praticamente andato attraverso il parabrezzi in mezzo alla strada. Sì, ma poi la cosa bella è stata che quando mi sono svegliato faccio ADD, una rovina. Sì, c'è il video da qualche parte della Sì, tua però no, reazione non in si. diretta. C'è. È su, tutto sulla pagina, ovviamente. Però non si riprende. Non c'è quella parte di ADD, una rovina. Perché mi pare che il video si era concluso pochi secondi prima, appunto. Quindi manca Esatto, quel esatto. pezzo là. Quindi, niente. Si può dire che è arrivato il momento di un altro pezzo. Che ci dici? Che avevi Allora, io ti selezionato? dico, ti posso dire tante cose, quello che dirò in questo momento è. Non dico altro, non faccio descrizioni, anzi, una piccola la faccio. Era un pezzo molto punk, molto pop punk. Non era il nostro genere, ma ogni tanto uno scappava. La sto già andando a selezionare. Tu la stai già andando a Sì. selezionare. È una frase che per noi era quasi un mantra, rappresentava un pochino il nostro concetto artistico e poetico. Andrebbe cantata come un inno e si chiama Sono morto e non lo so. Sono morto e non lo so. Eccola qui, ADD, sono morto e non lo so. Viaggio, me ne frego di voi altri, sono morto e non lo so. Ciao Silvio! Ciao! Madonna mia, che questa qua era seriamente un'altra di quelle canzoni che quando la si faceva piena di carica, piena di Molto. carica. E questo era anche piaciuto un po' alla gente. Sì, stranamente, perché poi è la più corta, la più quasi insignificante a livello di testo, però andava. Infatti sì, è strano, strano. Vabbè, ma d'altra parte poi Certo. sappiamo tutti come sono fatte le persone che ascoltano musica, la maggior parte, molto strane, bislacche e soprattutto particolari. Molto particolare, come beh, a voglia, quanto è particolare sto signore. Allora, guarda, siamo sulle battute conclusive. Ok. Io, a me preme dirti, e dirvi in generale, anche a tutti gli altri ovviamente, che comunque è stata un'esperienza fighissima e adesso è giusto ripercorrerla dalla fine, si può dire, Sì. dal penultimo CD che abbiamo fatto, quindi stiamo parlando di... Il penultimo vuoi dire bombe postume? No, intendo quello là, è l'ultimo Bombe Postume. Ma allora mi stai prendendo per il culo, vuoi dire fuori di me? Esatto. Mi ha ingannato, mi ha ingannato. Te l'ho fatta. Allora, abbiamo sentito un pochettino di pezzi di Fuori di me, Certo. ovviamente, ma ne abbiamo saltati altri. Sì. Vai, interrogazione, che cosa abbiamo saltato? Abbiamo saltato l'intro senza direzione, il buongiorno si vede dal martirio, li so a memoria. Vai. Beh, ha voglia, le hai scritte tu poi, d'altra parte. L'ho scritto quasi tutto io. Sì, a parte quella che nominavamo prima, ossia proprio come voi, per tutte le altre, le hai scritte tu, se non erro. Sì, infatti, Sì, sì. poi cacciate anche la piccola parte di Specchio Repata, poi tutto il resto è tuo, completamente Sì, tuo. alla fine su molti pezzi ragionavamo insieme. Diciamo che sono miei, ma comunque Sì, ha ne voglia. parlavo con voi, li facevamo insieme. Alla fine sono pe pe pe cioè, testi un po' di tutti. Sì, esatto. ADD patrimonio della nazione, della cultura e di tutto il resto. Yeah. Allora, invece, raccontiamo Bombe Postume sin dall'inizio. Allora, Bombe Postume è stato il secondo album che abbiamo E fatto anche ultimo. dopo il successo del primo, e qui vado a spiegare. Vai. Il primo è stato registrato in uno studio discografico, studio di registrazione di Cosenza, in mezzo a tante risate e tanto divertimento, perché era la prima volta in studio per tutti noi, è stata una bellissima esperienza. E Ha voglia. poi è partita la distribuzione, perché io personalmente da solo cioè abbiamo comprato insieme un pacco enorme di CD, un pacco enorme di scatole per CD, copertine, come si chiamano, Sì, vabbè. ci hanno capito, insomma, si può dire così. Ci hanno capito. E io mi sono messo da solo a produrre tutti i CD, a masterizzarli uno a uno con sopra le canzoni, ad assemblare le scatolette, a metterli dentro e poi distribuirli in giro. Vabbè, là c'è stato anche un aiuto soprattutto appunto di Kim e di tutto il resto della famiglia, insomma. Sì, c'è An stato un grande aiuto là. Perché quando c'è stato il concerto in Galleria Mancuso, per esempio, là eravamo arrivati Ah. con la scatola piena di CD e si sono finiti, insomma. Anzi, se proprio vogliamo raccontare qualche bell'aneddoto, Vai, questo io te lo devi raccontare. all'epoca avevo questa abitudine, avevo la macchina piena di questi CD perché avevo appena preso la patente. E avevo una macchina che non era una macchina qualsiasi. Nel caso di qualche Che macchina è? amante delle macchine, per qualche amante delle macchine vintage che la conoscesse, è la Renault 4. Madonna, che macchina, signori. Che macchina. Altro La macchina poco di ci mio lasciava a nonno. piedi. Ci lasciava a piedi un altro poco a Marcellinara. Già, e io andavo in giro con questa macchina d'epoca in giro per Catanzaro, con uno scatolone sul sedile del passeggero pieno di CD, e quando andando in giro per la città vedevo qualche persona che conoscevo, al volo mi accostavo, lasciavo un CD e scappavo. È successo a tante persone che possono testimoniare, è successo a Carmen, se la vogliamo salutare, a Carmen Marchio, che Ciao l'ho beccata in Carmen, giro. waka Ciao waka, tanti Carmen! bacini. L'ho beccata in giro che era sul corso che andava a scuola, anch'io stavo andando a scuola con la macchina quella mattina e non mi sono nemmeno fermato. In Eravamo corsa. dove c'è la stand praticamente, Ok. io passando al volo, le urlando Carmen! Mentre passavo, lei si è girata, ha teso la mano, le ho messo il CD in mano e sono andato via senza fermare la macchina. Alla festa in Furious, si può dire. Certo. No, ma poi soprattutto c'è da raccontare anche, soprattutto a me questa cosa mi preme raccontarla. Quando siamo stati in Galleria Mancuso c'è stato il concerto, come ben tutti sappiamo, o meglio, come sanno quelli che insomma bazzicavano la scena alternativa di Catanzaro. E non mi potrò mai scordare che noi mi pare che eravamo i primi anche quella volta. Correggimi se sbaglio. Non ti correggo. Ok. Praticamente abbiamo suonato noi, adesso non per vantarci, ma penso che c'erano 70-80 buone persone. Abbiamo finito di suonare noi, si sono completamente disperse le persone, sono tutte andate via, insomma. E in tutto questo c'era la mia carissima amica Azzurra, che sicuramente tu ti ricordi, che Wow. praticamente era messa al banchetto del CD, banchetto poi regalato da, cioè prestatoci da Federica. Un altro Sì, saluto anche a lei. un'altra cara amica. Fa ridere Federica, mica la connotazione, vabbè, lasciamo perdere. E comunque, vi ripeto, a me soprattutto mi preme raccontare un discorso. Gli arriva un ragazzo, io gli faccio per dargli il CD, lui mi fa: quant'è? E gli faccio: guarda, offerta libera. Ti posso giurare che mi ha dato 20 centesimi. Ma io c'ho solo 20 centesimi. E va bene, dammi di uguale. Ma davvero stai dicendo? Sì. Perché alla fine dei conti, basta che tu te lo senti sto CD. Perché quei 20 centesimi li sputerai. E Sì. tant'è che poi stiamo parlando di Brando, se non erro. Era Brando. Sì, era Brando. Allora, un carissimo saluto a Brando e un bacio da parte mia perché Brando è la persona più bella di questo mondo. E ci ha pagato un CD 20 centesimi. Benissimo. No, ma stupendo. Poi ci sono altri che 10-20 euro addirittura. Vabbè, lasciamo stare. Belle situazioni. Guarda, mi pare che sia arrivato il momento di andare via. Quindi direi che stavamo parlando di Bombi Postumi, raccontiamolo molto brevemente, poi mettiamo l'ultima canzone. Tanti saluti. E allora, Bande Postume, molto brevemente, è composto da poche canzoni ma belle, poche canzoni un pochino più mature, registrate in uno studio con un pochino più tempo, quindi è stata un pochino curata più la situazione. Non tanto per lo studio in sé, ma perché noi eravamo molto più concentrati. È stato un CD bello, secondo me, belle canzoni. Abbiamo sentito, per esempio, proprio come voi, John Doe, e la prossima che nominerò io fra poco. Sì, perché appunto la prossima, secondo me, è l'ultimo pezzo con cui si chiude una degna carriera, fra virgolette carriera, ed è giusto che, cioè, è proprio la ciliegina sulla torta, perché si sentono tutti gli strumenti che sappiamo suonare, anche te con la tastiera, soprattutto ci siamo tutti quanti anche alla voce, quindi Sì, è un'altra bella storia anche questa. questa è una delle mie canzoni preferite perché è una di quelle che secondo me è fatta meglio, suona meglio ed è stata registrata meglio. Questa qua È stato molto invece, divertente sì, perché ognuno suonava qualcosa e cantavamo tutti quanti insieme. emotivamente parlando, invece secondo me è la migliore questa. Sì. Almeno emotivamente parlando, a me è quella a cui sono legato di più, perché appunto ci siamo tutti e quattro. Quindi Silvio, io è Ehi. arrivato il momento di staccare. È stato un piacerissimo, come sai. Invece no, perché ti sei dimenticato di una cosa. Che cosa? Dovevi fare dire Wombat Wombat a suo tizio e lui non l'ha fatto. Sì, l'ha detto. Suo tizio l'ha L'ha detto, Wombat. detto! Sì, E sì, sì. allora te lo devo fare pure Lo io. devi fare anche tu, ovviamente. Ok, te lo faccio adesso? Ovvio. Vado! Wombat Wombat! Olè! Pure con la chitarra. Anzi, che era? L'ukulele? No, era la mia fedele chitarra. Azzo, quella, la famosa chitarra acustica con cui abbiamo composto fuori di me. Vabbè. Va bene, quindi ci siamo. È arrivato il momento Ok. dell'ultima canzone, è arrivato il momento di DNA, è arrivato il momento anche dei saluti, quindi ringraziamo tutti quelli che ci hanno sentito, ringraziamo tutti gli ADD che hanno partecipato, tranne quel pezzo di merda e bastardo Getteo che preferisce la figa al posto di noi, e soprattutto vi rimando alla quinta puntata di Music Vox Populi, che potrebbe essere con un'altra band, si spera, e soprattutto potrebbe anche essere la tua ADD band, Silvio, quindi tieniti Potrebbe attento. essere, Tieniti ti farò dei pronto. pezzi a breve. Ah, Tieniti un'ultima pronto. richiesta. Dica. Quando hai registrato la puntata con il giardino, come si chiamava il tuo compare? Il mio compare. Aspetta. Oddio. Pizzo. Ok, allora mi fai un grande piacere perché io ho amato quella puntata. Gli dai un bacio da parte mia. Ok, quando lo becco gli do un bacio anche due. A posto, ti saluto allora. Ok, Silvio, è stato un piacere. DNA. Ciao, un bacio a tutti. DNA, tanti saluti a tutti quanti. Questi sono stati gli ADD, riassunti più o meno in un'ora e qualcosa.